dirmi appunto che la radio era pronta, che mi aveva preparato anche l'altra, se salivo stasera. E lui ha detto, non lo so perché sono senza macchina, diceva mia figlia e l'ha portata a lavare, non dirgli, ha lavato ragazzo, quindi ancora non è tornata. Quindi non lo so, io poi devo uscire, e lo volevo avvisare se c'era più tardi che magari passavo, però non risponde, è tutto muto, però lui mi ha chiamato a me e mi ha passato la scritta, Gianni Capri, quindi ce l'ho memorizzato, dal telefono ha chiamato. Sì, no, già funziona, se lui esce fuori di casa funziona e non c'è problema, però dentro casa, tu lo chiami dentro casa, non piglia, se è risposta lui, se si sposta Mario in un'altra stanza lo funziona. E il numero del figlio di Claudio ce l'hai? Sì, tutte e due muti. Magari sono all'interno molte volte. Ma la Juve te la guardi oggi qua? Non lo so se la guardiamo da qualche parte, boh, intanto è alle 10:15, capite, ora sono le 9:15. C'ho appuntamento lì al quadrato, andiamo a farci giro in moto, quindi ci accendiamo a Portogio, magari ci guardiamo qualche festa in qualche bar, vediamo. Ok, adesso alle 7:30 ci dovrebbe essere il Milan. Vabbè, ma c'è troppo caldo a stare a casa, no? C'è un'aria calda fuori e infatti volevo fare una passeggiatina col cane, ma non mi sono potuto andare in Davide perché era già la Candy, se ne è voluto rientrare, c'è troppo caldo. Non lo so, è tutta la settimana così, perché poi entra adesso il vento da sud, è ancora peggio, c'è l'anticiclone, adesso è iniziato l'estate, diciamo, il caldo forte, 34 gradi ci sono. Vabbè, così iniziamo a andarcene in piscina, e c'è la biglia in culo, Lugardo che l'ha inventato. Eia, c'è qualche altro qua sul 10? Non lo so, Tonino è andato a mangiare, a prepararsi il mandico, Gianni, non fosse al telefono con Tonino, ha detto che doveva chiamare. Eia, questo è l'altro, mi sa. Qual è l'altro? Il 14. Eia. Eia, un po' più basso, ma già va bene lo stesso, no, questa è sempre quella che ho provato ieri, il Midland è questo, il 574. La serie lì, il Polman ho commutato, vabbè. No, mi ha fatto anche l'Inuit, come quello che ci ha preso Riccardino, io ce l'avevo già quella serie lì, l'avevo data a un collezionista di Sassa, per non fare nome, capito? Però mi piaceva perché esce molto molto bene. No, questa è 40 canale, un'altra guba, c'ha le bande laterali, è più completa come radio. Però sia il Polman che il Zodiac, cioè che l'Inuit escono molto bene, capito? E Gianni è Capri 2, me lo sta dando anche quello lì. No, è una bomba, sì, veramente forte. E mi stai dicendo, questa radio è più bassa dell'altra, tra? Leggermente, ma niente di che, vabbè, diciamo che in linea di massima sono uguali, dai. Linea di massima sono uguali, adesso ho commutato e ho visto che sono uguali. Ma tu stai parlando di radio o di segnale? No, segnale è sempre quello, la radio, quella là del 44 è leggermente più spinta, forse ce l'hai il micchino un po' più alto. Cosa volevo dire? Mentre l'ho provato con la Donis, dice che c'è male, la modulazione è diversa. Pensavo fossero uguali come modulatori il coso, il 14 con 44, invece con le regolazioni, la Donis con la regolazione del 44 su 14 non va bene, invece 60 va bene tutti e due. Vabbè, quel 14 ce lo dai, ma non io te lo faccio uscire uguale al 44, perché io con il 140 la modulazione non cambia dal 440. Parità di Michigin, chiaro che se spingi un po' di più con quello là è diverso, però evidentemente c'è il trimerino dello slider interno che è chiuso, quello bisogna togliere il coperchio e aprire il trimerino, capito? Viaggia alla grande, a quanto c'era il Michigin, lo slider dove è sotto la C? Non è al massimo, ce n'è ancora da alzare qua. Mettilo al massimo, devi tenerlo al massimo quello. L'ho sollevato un pochettino, non al massimo ma l'ho alzato un po'. Va bene, in linea di massimo sì come l'altra, No, io lo tengo al massimo. Lo tenevo al massimo, dai, perché non ce l'ho. Lo tenevo al massimo. Va molto bene. Se lo tieni al minimo non spinge, vedete, io lo tenevo sotto la C. Capito? Proprio sotto la C. E andava benissimo alla grande. Oh, qua posso salire, aspetta, provo a salire, ma non vorrei fare. Adesso è al massimo, 1, 2, 3, prova radio. Beh, sì, uguale a K, né più né meno, vedi? non distorce niente, la modulazione è bella, forte. Lascialo così, al massimo devi tenere quella roba. Ah, pensavo che fosse un po' più basso. Ok, e beh, per se attacco mi ti faccio sentire la Dunis, per curiosità, dimmi un po'. Prova, che io ce l'ho orecchio. Vabbè, questo sarà troppo forte. E chi è che ti ha detto che fa male? Ho detto che era nasi nuovo. Un pochino, ma cosa c'è? Equalizzatore inserito? Sì, però non ho poco questo equalizzatore perché ho regolato per l'altro, per il 44. Ah, beh, spegnilo, cosa c'entra? Lo puoi spegnere però. Adesso è stato equalizzato. Ah, è bruttissima la modulazione. Non va bene per quella radio, strano, eh? Però non va bene, non mi biasi, è cupa. Adesso è con l'equalizzatore. Se non gridi, forse va bene, prova. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, questo è un microfono con l'equalizzatore, però è regolato l'equalizzatore per l'altro tipo di radio. Vedi, con il microfono è 140 al massimo, è regolato così, senza toccare niente, per me fai bene, non è cupa adesso. Beh, vabbè, ma qua basta che ti metti a regolare e cambia tutto, totalmente. Ma non l'ho fatto, non l'ho fatto per il 44. Ecco, rimetto il coso, il come si chiama, il 60. Il 60 va bene, spinge parecchio. E questo è 60. E lascia 60 che va bene, non c'è problema, va bene. Questa va bene, ma la chiamo, mamma mia, va bene, può essere un barattino ottimo. È una bomboletta, si spinge parecchio, molto potente. E ce l'ho a 4. E ti ricordo che questo non ha mic gain, il 574 non ha mic gain. Ma sta spingendo parecchio, molto forte anche segnale, spinge anche di segnale. Segnale siamo, allora siamo in scala, aspetta, ecco qua, scala 20, siamo intorno ai 10 watt, 12 watt modulati. E a buglia, spinge anche una meraviglia. Sì, va bene, va bene. No, è una bella radio, c'è una bella ricezione e trasmette anche bene. Non so che differenza ci sia dal polo, ma non lo so, ma mi sembra siano quasi uguali. Adesso non vorrei diluite, se spingi uguale a queste. Oh vabbè, qua ti sto ascoltando con l'SP23, con l'altoparlante del C80. Non è che sia di grandissima qualità quello lì. Dopo ti ascolto con l'altro baracchino. Vabbè, no, tu stai arrivando bene. Io non c'ho né colonia esterna, niente. Queste radio mi piacciono perché c'è un altoparlante davanti e quindi si sente molto molto bene, veramente molto bene. C'era uno cacchio che sta vendendo fuori e due altoparlanti SP23, però c'è scritto qualche graffietto e coso, 40 euro tutti e due, regalati fru. L'SP23 però è quella col frontalino nero, non è della serie 140, 430, 680 e 440, quella è l'SP23 del 450. Ah, della serie 450, io pensavo fosse della serie 680, figurati. Ma 680, no, 680 è lo stesso colore del 140, adesso ho convinto. Il 450 è che è nero. Esatto, la colonnina davanti è nera, capito? La griglia è nera per far linea, mentre la colonnina delle 430, 440, 680 e 140 è l'SP430 che ce l'ho io. Via. E vabbè, tanto me la da due, se va giù c'è l'SP940, l'SP, come si chiama, l'SP23, me l'hai dato tu. Sì, perché io prima c'avevo il 450, quando ho dato il 450 me l'ha rimasta la colonnina e l'ho data a te, esatto, quella è del 450. Via. No, vabbè, la più bella è quella del 940, quella sì, c'ha un suono, poi c'ha anche i filtri, puoi commutare due radio, è bella per quella. Quella colonnina costava una barca di soldi, capito, uguale a quella, solo che è nera, precisa, identica, con i filtri, puoi commutare due radio, capito, puoi mettere due radio in ascolto con la stessa colonnina, eccetera. Quella è l'SP8, quella dell'FT950, che ce l'avevo io, però l'ho venduta assieme alla radio, se no ti avrei dato anche quella. E quella invece mi pare la Kenwood, ne faceva uno, non so se era la Kenwood o la Icom, che c'aveva la DSP incorporato, qual era? Della Kenwood o della Icom? No, della Icom. E quella non l'ho mai provata, lo so, l'avrei voluto vedere se funzionava effettivamente il DSP. Quella ci vogliono soldini a comprarla, ma insomma costa intorno ai 270 euro quella colonnina. Anche la Yaesu lo faceva. Anche la Yaesu, però senza DSP. Stai vendendo uno esterno di DSP da attaccare all'apparato, però costa un pochettino. Però non mi fido, sarebbe bene provarne uno per vedere se ti migliora. dove lo attacchi? A 4,40 mica lo puoi attaccare. No, lo puoi attaccare a qualunque apparecchio. Anche analogico? Sì, sì, anche analogico. No, non sapevo. Pensavo fosse solo per le radio semidigitali, digitali, capito? Ma cosa del genere? Vabbè. E tu te la guardi la partita, intanto belli il Micro Bologna, hai visto l'Inter? Sono l'Atalanta, la macchina da gol. Non ne fa, ogni partita ne fa 4, ne fa 6, ne fa 7, ne fa 5, ne fa 3. A rimane ne ha fatto 4. Ma tu non vi credi che se gioca contro la Juve busta forte con l'Atalanta? C'hanno un ritmo giocando, buh, se vanno da bocca aperta. Ma perché non hai già perso con l'Atalanta? L'ho perso in cosa? Che cos'era? Coppa delle coppe, non mi ricordo, comunque ha perso con l'Atalanta. Ho perso anche a Bergamo. È molto molto difficile il campo di Bergamo e anche l'Atalanta fuori casa è ancora più forte. È fortissima in casa ma anche fuori casa, c'è un gioco micidiale. Ma perde anche col Bologna stasera la Juventus, non ti preoccupare, non vinci nulla la Juventus quest'anno. Sarà una grande delusione per i juventini, a me non mi interessa, io sono sportivo, però ti ripeto, la Juve quest'anno non dice niente. Sarri può andare a farsi fare in culo perché perde il campionato, perché la passa la Lazio di brutto, l'Inter risale di brutto e lei se fa il secondo e il terzo posto quest'anno è anche troppo. La Coppa Italia l'ha già persa, perde la Champions perché la perde ed è finita. Ciao. No, non ho cambiato Allegri, io non lo so, la squadra è riuscita ad andare a due finali di Coppa dei Campioni e ha perso per sfortuna, perché sennò non le avrebbe perse. E ha fatto quanti campionati ne ha vinto? 5 e c'è un allenatore vincente. Io questo non capisco, perché volevano un gioco, anche un bel gioco, da bel gioco. Io quando voglio giocare la Juve quest'anno dico è ridicola, cioè non noto niente. Almeno con Allegri ci voleva qualcosa, è tutto schemi contro schemi e i giocatori sono dei burattini, nel senso ogni movimento è cosa, non gli lascia la libertà di muoversi. Ah, hai visto che si è rincoglionito Ronaldo da quando sta giocando, da quando c'è Sarri? Il gioco delle Lega era molto più veloce, molto più competitivo, era simile a quello di Conte, capito? Faceva lo stesso schema, questo ha cambiato tutti gli schemi, non capisce un cazzo. È un allenatore fatto da Gaddo, capito? Lascia perdere. Poi la cosa che mi ha dato fastidio, hanno venduto a Mandzukic, cioè hanno fatto fuori a Mandzukic e l'altro Betancourt, due giocatori, certo che gli sarebbe servito come il pane quel giocatore Mandzukic, sai che me lo fai fuori, l'hanno trattato peggio degli animali, un giocatore che con la Liga si adattava anche a fare il difensore, talmente era intelligente, sai che mi tieni in una squadra che fissa solo su Dybala e coso, e Ronaldo e Higuain, se per caso anche Higuain non è un attaccante di ruolo, cioè e Ronaldo che non è proprio una punta, la prima punta, una seconda punta e arriva la mate sui gol. Infatti io faccio giocare da Douglas Costa, a Cuadrado, ha visto molto di Bernardeschi, e visto può fare guardialine, quello è meglio che si tolga i coglioni, lascia aperto. No, ma infatti io non sto guardando di calcio, non sto guardando proprio perché non è inutile che mi metta a guardare quando poi mi incazzo, perché vedo una squadra a quei livelli che era ai vertici della classifica a livello mondiale e ci sta scendendo dentro il cesso, quindi cosa la guardi a fare? Cosa la guardi a fare? Assolutamente, lascia perdere. Ha fatto due partite di esordio, una in Coppa e l'altra in coso, che sia l'andata che il ritorno, per carità, da schifo. Il Milan comunque sta vincendo 1-0, io gli auguro solo, io non sono juventino, non sono mai stato juventino, però gli auguro solo, anche se non dovesse vincere il campionato sarebbe bello magari non vincesse un'altra squadra, anche per dare un po' di coso, di credibilità al campionato, che vincesse la Coppa dei Campioni, ma la vedo un bel brutta, che con Lione non è facile, ha già perso l'andata, va, voglio vedere come stai andando. Ho detto non vince niente, se vince la Coppa dei Campioni, non vince niente, non vince il campionato, perché la Lazio è più motivata, è una squadra molto più forte. Capito? C'è l'Inter che ha giocato una bellissima partita e ti sto dicendo che si riprendono quelli lì alle grandi, l'Atalanta è nuovamente lì, capito? Non vince niente, con la Lazio deve meno le partite che c'ha la Lazio, c'ha il Milan, c'ha la Roma, c'ha l'Atalanta e ne ha di partite toste. Se non si danno una mossa è finita, non vince nulla, la Champions non la vince assolutamente, arriva lì e boh, si blocca, vedrai. Non so chi è, grazie del tuo intervento, questo lo sapevamo, ma infatti a me non me ne affutti manco ballanti in camera, né dei soldi che prendono, né di quello che giocano. Io penso alla mia di vita, il calcio lo seguo quando mi piace seguirlo, se no in tasca non mi entra niente, quindi che vinca o perda, a lavorare bisogna andare lo stesso. Ma che è? Avanti che è? Chi è l'amico che parla? Boh, io non ho capito chi è. Vabbè, loro ce li hanno i soldi, noi dobbiamo andare a combattere e a lavorare. Vabbè, beh Roberti, io ti saluto e vado a cenare, vai, che poi devo uscire, te l'ho detto, ok? Ciao, buonasera, buon tutto, salutoni a chi c'è e chi non c'è. Ci sentiamo alle prossime comunicazioni, ciao. Ciao Claudia, ci sentiamo, passa quando vuoi. Ho chiesto, vado a avermi un pezzo di partita, vuole vedere che questo che stava commentando, anche lui ha commentato questo sulla Juventus, però non ho capito chi è. Non l'ho riconosciuto, arriva molto basso qua, segnale 4-5, non so. Va bene, dai, ci sentiamo. No, non mi guardi, adesso mangio un boccone e poi me ne esco e farò un giro motto. Ciao ciao. Ciao Claudio, mi hai sentito lei. Ciao Claudio, buona cena. Avanti l'amico col quarezzetta, avanti. Guarda che io già, ci sentiamo la metà mattina più tardi. Ciao ciao. Ciao, vabbè, buona carica, vado anch'io. Vuol dire che mangerò adesso. Ciao. Non devi portare il cane. Adesso l'ho porto, dai, fra un po'. Mangio e poi lo porto. Se ce la fai portarlo dopo, c'è un vento caldo ancora, non ha male. Non l'abbiamo chiamato, non si presenta a questo, vabbè. Dai, ciao già, che vado a mangiare anch'io, ciao ciao. Ciao Cla. Vuol dire che non si vuole presentare, è un anonimo. Rimanga anonimo. Geronimo è morto, te lo ricordi a Geronimo? No, sta parlando, per me è da fuori. Sta parlando? Non te nudai. Come ti chiami, Giorgio? Ah, Giorgia. Giorgio. Ciao Giorgio. Ma scusa, io non avevo mai sentito questo nome. Giorgio, va bene, ciao Giorgio, buonasera, Claudio da Sassari. Ok, ben entrata e io ti lascio perché devo andare a cenare, ciao. Giorgio, da dove moduli? Ci fa piacere sentire la voce di una donna, infatti mi sembrava un po' femminile la voce, ma a volte ci sono anche maschietti che hanno la voce femminata, quindi non ho osato dire niente. Da che zona più o meno? Che cazzo, non ti danno il telefono? Lasciami. Ho detto, Giorgio, da che zona più o meno? E allora siamo più o meno nelle stesse zone, dai, io da Montefurru. Già, a me sembra un Bione, ma Marina sì. Ma mi sembra di conoscerti dalla voce, bruh. No, ma che Marina sei tu. Ma questa è una cosa più calda. Questa è, vabbè. Tu sei la moglie di qualcuno, la ragazza di qualcuno, dalla voce mi sembra di conoscerti, va bene, dai. Se ti va di giocare va bene lo stesso, ok, dai, ciao a tutti, correti per me, avanti Antonio. Poi se vuoi partecipare anche tu, guarda, andiamo, non c'è problema. A pulire. Kappa, tu da che cucchia, da che casa stai modulando? Di chi è l'apparecchio? Dai, dimmelo. Tu già, te l'ho già letto dove sta modulando. E mangialo su io, ok, non ti preoccupare, saluto. Non c'è problema, Mari, dai. Tu già, ma gli avvisitani lo fa vedendo io. Ma già ne ho più rum che c'ha il dito veloce, lui come sente donne diventa, si impazzisce, capito? Ma tu no. Oh, io non ne ho bisogno, guarda, tranquillo. Cosa stavo dicendo? Vabbè, ho capito chi sei comunque, ho detto salutami il tuo compagno. No, se tu hai detto che deve rimanere anonimo, se io dico il nome, lo sanno tutti dove stai trasmettendo, no? Perché il segnale è quello, quindi io so qual è il tuo compagno, ma non lo dico visto che non lo vuoi dire tu, comunque va bene lo stesso. Un saluto, ciao, vai Gianni, tutto per te, Giorgio. Giorgio c'è il compagno, lasciala stare, che io non tocco le donne degli altri. Cosa stavo dicendo, Giorgio? Come mai non hai micropanico? Sei molto spedita a parlare. Solitamente le prime volte che l'ho fatto al baracchino ha un po' di tentennamento a parlare, si chiama micropanico. No, si si chiama microfanico in gergo CB, però di solito si vergognano le persone che parlano le prime volte, non sanno come fare, invece tu sei abbastanza corretta parlando, aspetti che finiscono gli altri di parlare, eccetera, sei abbastanza educata e frequenta. Lo conosci meglio di noi il baracchino, già l'ho usato 100.000 volte. Dai, fai la brava, dai. Vabbè Giorgio, dai, ti saluto, io vado a cena, mi ha fatto piacere fare due chiacchiere, dai. Ci sentiamo alla prossima. Salutami che ci è vicino a te, non so se lo conosco, però lo saluti lo stesso, dai. E dicelo tu che siamo curiosi. Ma secondo me la voce non la conosci già. Sì, è una voce già conosciuta, però non riesco a capire chi sia. Vabbè, se non lo vuole dire lei. Dai, è tardi, vado a cenare anch'io e poi devo uscire. Ciao, ciao Giorgio, un abbraccio, salutami a quel delinquente, va, ciao. Cosa? Iniziali, che iniziali ti dico? Iniziali, iniziali. Io nominativo so, ma iniziali non me lo ricordo. Falcone! Naso. Comunque non sei dentro Sassari, tu sei in periferia, vero? Pronto? C'è nessuno? Vabbè, vado a mangiare Antonella, ciao. Ma chi sei Claudio? Tonello! Claudio! Oh! Che cazzo fischi? Ciao! Ma che cazzo fischi, che non so chi sei! Quanto sei dolce! Oh, vaffanculo, Ma chi sei o no? Sei o no? Amore, non ci sei più? E me cosa c'è? Sono di Sassari vecchio. Centro storico. Ti è brigata Sassari? È possibile. E cosa c'è? Non ti ho capito. Ma cazzo, ma dove sei? Bruno? Scacco lignale, che senti molto male. Scacca tutto. No, non ti sento, ti sento solo. Ma ti sento male però. Forza. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. E buon Antone. Sì, Marino. Saluto la signora. Stavo uscendo tutta parata, stavo uscendo. Sì, stavo parlando lì, fratello. Ha preso il microfono con barattinale e si è messo a parlare. Fatto bene, fatto bene. Io non riconosco subito, non ascolto. Allora, meglio così, dai. Poi c'è una signorina in ascolto, al mare. Falla passare avanti. Non so se è al mare, la verità, perché la sentiva tutta male, ma male veramente, sembrava tutta fuori frequenza, con l'inea attaccata, poi scesa di segnare il colpo, non si capiva più niente. E arrivava un po' stazzo, avevo Santiago di sette qua. Sì, figura di bu. Come sto uscendo io, Antone? Perfetto, sì, anni 5 a bomba. Andiamo. Ok, tutto a posto, sì, sono io. Sì, a parte dove dice Simona, le gambe, vabbè, comunque tutto a posto il resto. Sto facendo tutto io. Mi figura che devo fare tutto veloce, con la valigia in terra, cucinare, poi da fare... Mamma mia, ragazza. Poi andare... Poi ho anche 5 minuti per andare al bar, bevo una birra veloce. Poi andare a fare la spesa e cose del genere. Alla fine mi avete ricoglionito a casa. Poi vabbè, piano piano Antonio, piano piano, vai, ci sotto. Già fatta, non passerà. E piano piano. Guarda, se mi capi, già che sono libero la prossima settimana, martedì ti chiamo. E andiamo a prendere l'aperitivo, va. Sì, quando vuoi non c'è problema, capito? Per quello non c'è problema. Adesso più che altro è... Ci sono questi diavolo di... Non si può andare nessun posto, devi fare tutto i mail, cose del genere, gli ampia adesso vuole fare il cambio del medico e quindi mi stava girando le palle già da 4 giorni, anzi 5 giorni per esattezza, capito? A un certo punto, oggi sono andato, stamattina alle 7, sono andato via, non avevo manco fatto entrare, mi ha dato un foglietto, dice vai, fai le domande ai mail, col computer, o se no via telefono, eccetera, eccetera, e... per il cambio del medico, perché lui del sole non lo vuole più, capito? sua, eccetera, eccetera. Attenzione, Brecco. Esatto, buonasera un attimo. E ormai è tutto in media, Antonio, è tutto al computer, ormai non fanno entrare, si dico tutto. Ok, avanti Brecco, buonasera. Ciao, la buonasera da questa parte, Fabrizio, per un controllino. Ciao Fabri, 9.30, 45. Va bene, aspetta, faccio una prova, io voglio vedere una cosa. Aspetta, pipì. Va bene, dai. Va bene, aspetta se sollego un po' cosa succede. Processore, sì, aspetta. Ecco qua. Come va un po'? Sta spingendo un po' di più? Sì, però c'è una cavoccia molto piccola vicino a casa. No, adesso l'ho tolto il processore. No, deve esserci qualche cosa, c'è sul processore, bisogna lavorare, no? No, adesso sto dicendo bene, ma poco fa sento... Allora, diciamo che è molto piccolo in casa. Perché ho messo il processore. No, sto mettendo a posto questo 440. Ho finito lo taglio finale. Aspetta, provo a mettere il processore, cosa succede? Lo sento tu anche abbassando, aspetta. Uno, due, però. Uno. Così come ti sembra, però non sta spingendo. Così va bene. No, secondo me no, c'è qualcosa sul processore. Adesso stiamo facendo quella specie di vento. Tu. Abbassa per la pena. Guarda, sollevo così e probabilmente va bene senza processore, giusto? Adesso va bene. Niente, vabbè, già lascio proseguire, dai, per il resto sta andando bene. Bisogna capire questa storia del processore perché sta andando male. E per il resto siamo quasi a dama. Dai, grazie Pompo, ci sentiamo. Un saluto a tutti quanti, scusate del disturbo. Di niente, non c'è problema. Ciao Fabri, 9.18 qui a Ottava, 9.18. Quel rumore, se non riesce a avere qualche scavatore sotto casa, tutto qua. Ok, la radio è perfetta. Bene, avanti Antonio. Infatti, sento tutto. Oggi ho trovato ma è molto picco paria. Sarda. Buonasera anche a lei. È proprio uno scavatorino sembrava, proprio martellando. Avanti con la buonasera anche a lei. La Calabria, ascoltate la Calabria, la Venezia Terme, buonasera. Sicuro. Vincenzo, buonasera anche a lei. Marina in compagnia di Antonello, avanti. Ok, Roger, 7351, la Venezia Terme, la Charlie Zulu, operatore Franco, la K. Poi siamo qui Marina da Sassari, sempre in questione locale con Antonello. Avanti Antonello per Franco. Antonello per Franco. E Antonello stesso stato, avanti Franco. Ok, riprendo, ok, riprendo con le scuse l'amico, con le scuse. Calabria, la Venezia Terme, la K5 vi saluta, ok? Ancora a te. Ok Franco, qui a Stasia è 9.10 e vado 5, perfetta, eh? Se mi vuoi ricambiare il controllo, avanti. Ok Sassari, 9.5, radio super 5, la cosa è bella. Break da Bracco. E Nera, grazie, avanti Prato, buonasera. No, soltanto per sapere se l'amico della Calabria mi copia, ripeto qua a Bracco. Franco, l'hai copiato l'amico di Prato? Negativo, pio l'ascolto, ho capito qualcosa, però l'ascolto a limite di QRM. Prato, hai ascoltato Franco? Attenzione Prato? No, lo so, ma caso strano, ma io sto uscendo con 5 watt, allora tu stai uscendo con più potenza, perché a te ti ricevi a me dopo. Allora negativo, io sto facendo liscio, e la preparazione, tutto qua. Ti ascolta Pio, un attimo che ho lasciato un bianco l'amico di Sassari, Antonello, avanti, col pugno, ok, avanti Franco. Ok, sono te ascolto comunque, 9 di segnale, radio super 5. Va bene, comunque grazie del contatto, io stacco, devo andare a mangiare. Spero che ci riascoltiamo ancora, ripeto, la Charlie Zulu, la Calabria, la Venezia Terme, la K5, operatore Franco vi saluta. Buona serata Sassari. Benissimo, ciao Franco, 7351, a te cuore familiare, qui Marino da Sassari, che ti super saluto, ok? Ciao, al prossimo, buona carica. Ciao, buona serata. Mi sembrava qua, me la verità, infatti ho detto sicuro. Perché mi ha chiamato Simona e mi sono dovuto spostare. Comunque saluto ancora la Calabria, adesso da questa parte. Un bacchino, la modulazione sia la chiara. Arrivava forte, aveva più 20, non lo so io, sembrava Rogin Maria, quello che io ti seguo. Sotto casa tua era sicuramente. Senz'altro arrivava in preparazione molto forte qua, aveva sparito. Come sta arrivando attraverso Maria? Dammi un controllo di segnale. 9.15, radio 5, dove? Sempre bene. 9.15, allora. E così quant'è? 1, 2, 3, 4? Sei sceso 9.9 più o meno, 9.10, dai. Va bene, vediamo un segnale. Ok. La signora comunque è tutto ok, senti da posto? Piano piano sta migliorando, dai. Partito, va bene, lui delle gambe li ha aiutato tutti. Gli ho comprato quella fare per la muscolatura delle gambe, gli ho comprato la vitamina D, come si chiama, quindi si sta riprendendo piano piano. Vuole pazienza e basta, solo pazienza e basta, tutto ok. Bene, avanti Antonella, altri 10 minuti, vediamo quando mi chiamano se la carica è pronta, già salgo, ora già fischiano, avanti. Già lo credo che fischiano. Insomma, il ginocchio anche a me lo sai che forse si deve scendere con i pesi, mi sto massacrando la carità. Poi stamattina c'era fresco, quindi una cosa all'altra. Ecco, io sono già due giorni, vabbè, ieri era vero, io sono due giorni che mi fa male il ginocchio dove sono stato operato, capito? Boh, proprio dolore, come che mi stai iniziato un colpo di martello, mi martellando, per carità. E poi la mattina con mia io già sai che sono fresco, alle 3:15 ci sto scendendo da casa e c'è un po' il fresco ancora, poi non arrivo nel ponte guai. Già lo sai, siamo sotto Monteoro, sono freddo da morire, arrivo al cestone che metto a fare lo spogliarello, e lì non respiri dal caldo, avanti. Quello già è vero. Io lavoro, quando comincio a lavorare, a voi che viene caldo lì, per carità, specialmente al centro storico. Vabbè, a parte che quando passi nelle zone umide, per carità, ci vuole cosa ci vuole. C'è un freddo che sta dalle cantine, da crepare. Ma noi sono quello, Antonio, anche gli odori che la gente si mette a urinare da una parte all'altra. Da notte sta diventando un casotto, un casotto. Io alle 4 è vero, le greffette, poi c'è una greffa di spagnoli che sono porcaccioni, senza offeso le donne, ma le donne sono peggio, si mettono a fare tutto, a fare a destra, a sinistra, per carità, peggio del cane sono. Perché sono abituati a fare così, capito? Il discorso è quello, se c'è una greffa di spagnoli vuol dire che ci sono anche le ragazze, quindi a un certo punto in greffa, capito, vanno nei bar, le cose, ubriacano e poi fanno la pipì fuori, dove capita? Le donne sono le donne, lasciamo stare l'uomo, adesso se si offesa non voglio offendere le donne, ma sono le donne sono le più porcaccione che ci sono, non la fa, se la fanno davanti, non sbatte nulla proprio, sono peggio dei cani. Tu vali conto, io guarda, sto riempendo quasi due secchi di roba, tra bottiglie e altre cose, Santa Caterina, sono Santa Caterina lì. La sera si organizzano le feste tra i gradini di Santa Caterina e così via. C'è ogni giorno festa, sempre casotto, bottiglie di tutto, vino, gin, poncio, di tutto. Poi mischiamo tutto e fanno casotto. Avanti. Sì, cazzo. Quindi se per la Caterina lì di fronte al comune fanno casino adesso. Ci sono i vigili urbani, quando mai li lasciamo fare? Sembra strano. La notte non c'è nessuno, è pieno di telecamere, ma la notte non c'è nessuno, hai capito? Fanno scherzo, poi è tutta roba che acquistano dai pakistani, non dai locali. Perché il locale c'è tipo la brigeria, sulla Caterina con la piccolina, prendi la roba, bevi e poi c'è il bidone e butti, no? Poi il locale, prima di chiudere, c'è il ragazzo e fa il giro e si ritira la roba che c'ha sui gradini della chiesa. Il bar che c'è in fondo, fanno lo stesso e si ritira tutto. Quella è tutta roba che qui sono dai pakistani, i pakistani chiudono più tardi, allora si fanno la scorta. Fatto questa cosa che mischiano tutto, fanno quasi uno schifo proprio, sono peggio degli animali. Perché sono abituati a fare così, capitola. Il discorso è quello. Se vuoi tu, Oh, yeah, già la fai da fare, si muove da dentro, loro invece fanno quello che voglio. L'hanno fatto in una scuola, sono stati sopra il tetto, di tutto c'era, hanno fatto il festino, tutti, finché non hanno denunciato, hai capito? Tutti spagnoli, studenti spagnoli, era figura di tutto, mi ha fatto passare di essere qui in Sardegna. Sì, sono quei studenti, no, ma quelli sono stati mandati via, sono stati denunciati perché l'hanno visto tramite le drone, l'hanno invidiati, l'hanno tutto, anche il rettore ha preso la malattia, senti pure indietro, ma io l'ho anche denunciato, guarda. Ma sono ritornati, è arrivata un'altra bella greffetta, che adesso stiamo facendo casotto nuovamente, adesso ci sono le pattuglie di notte, stanno controllando, il primo casino che fanno è preso e sbattono fuori direttamente, la mandano via direttamente, guarda. Allora. Sì, sono abituati a bere quelli, capito? In Spagna sono abituati, fanno le feste ogni giorno, capito? Ne avevo, sai, a loro. Potrebbe, ma una fortinuta di noi, no? Sono per tutti, fanno la chiave di cioccolato e la fanno sciogliere anche la chiave. Sì, non sai, i locali sono aperti la volta lì al centro storico. Pakistani, di tutto in Kiwi. Non ho detto basta che sia a vendere, non ne fate nulla. C'è la crema della crema, non è capito. Adesso non vedo, non ci scendo di notte lì, al centro storico, prima è più tranquillo, ma adesso deve essere peggio del coso, deve essere di prima. Adesso io, tu pensa, io sto lavorando e ogni tanto mi devo girare, hai capito? Mi devo girare perché c'è mai questi qua, là dietro, chissà la base. E pieno, sono animali, bisogna stare anche attenti di alzare. Boh. Poi chiamo la polizia e non vende, non c'è pattuglia oppure così via, sono impegnato, hai capito? Aspetta, ascolta, sono al telefono Giovanni. Ehi, dai, vai al telefono, vai, però abbassa un pochino se sei troppo forte. Sei esagerato, così forte sono. Boh. Sono con il microfono palmare, non ho messo mai questa alerta, aspetta che sta... Cazzo, è possibile, aspetta, sta chiamando all'altro. E rispondi al telefono, vai. Attenzione Becco, per una prova. Avanti Fabrizio. Dai, vediamo un attimino, che sto, dimmi se è troppo alto il Mickey Game. Abbassalo leggermente Fabrizio. Ecco, abbassato leggermente. Adesso è bella pulita la modulazione. Perfetto, dai, allora c'è un, allora mi fa leggermente un innesco leggero in ricezione col volume alto. A studiarci, dai, però per il resto ricordate che stai uscendo bene col processore, che non disturbi. Questa è bella pulita proprio, chiarissima, ottima. Va bene, dai, adesso domani proseguo, l'importante è che inizi a uscire. Vediamo un pochettino e a voglio, vediamo pipì. Sì, sembra che stia anche spingendo. Va bene, dai, ti ringrazio, passo in quel Rick. Ah, fa bene, niente, scusi, ci mancherebbe altro. Va bene. E io sono entrato la Giovanna. Siete nel passeggio a Giampiero, a dormire. Sì, ok. Allora, me, guarda se aumenta adesso. Aumenta tua. Sì. Ok, dai, già va bene, dai. Ok Antonio, chiudo, mi stavo chiamando, va. Ciao Antonio, buona carica, saluto la signora e già ci sentiamo, va, saluto tutti gli ascoltori e per me qui è te. Ciao Antonio. Ciao, ci sentiamo, lasciamo così comunque l'apparecchio, con processore inserito, sempre, lo sai, a 50 watt, e lui è a posto. E ok, ciao Antonio, ciao di nuovo, ciao. Ciao. Ehi, ciao, usa porco. Allora, sì, smettendo con mio fratello, guarda la verità. Adesso scendo giù, mi porto le pastiglie per dormire, così se la prende in culo, se la prende. Ah, lui si beve, si piglia il sonnifero, con la birra non gli fa un cazzo, mi lo sai. Lui ormai è abituato. Se prendo io la birra con quel col sonnifero, mi sedono per la settimana, mi sedono. Non mi metti a vita, io una ma io ti parlo di sacco di anni fa, la verità, la pigiava solamente mamma, era anche Pandoromo, stavamo festeggiando una notte, Sono venuto qui, dammi la verità, io, mio fratello, mia sorella, eccetera, eccetera. E ha detto, ma bevete un bicchiere di birra? Va bene, non lo bevo, c'è un bicchiere di birra, ho pigliato la pastiglia per dormire, non già non mi fa niente. Cazzo, si beve un bicchiere di birra, dopo 10 minuti, cazzo, vado... Poi si è portata direttamente a letto, io e mio fratello, una mattina si è svegliata, dice non ci faccio a letto io, e capite che abbiamo portato noi a letto, quindi si è aumentata, no è possibile, io mi ricordo che non piedi, voi vi state pieno per il fondo del maletto. Allora, guardate che ho visto così, ha giocato l'effetto che fa, non c'è problema. Me l'ho memorizzato quando Simona stava lavorando con una persona anziana che la pastiglia per dormire non faceva niente, rimaneva sveglia tutta la notte. Sono salito sopra, avevo dormito via addirittura, è la verità. Buongiorno signora, eccetera, eccetera, sono il fidanzato di Simona, eccetera, eccetera, buongiorno Antonello, eccetera, eccetera. Ah, buona questa birra, allora c'era cosa, c'era? Il supermercato che non c'è adesso, già lo sai con l'inviamento. L'ho pigliato in chiusa, e poi signora vuole un bicchiere di birra? Sì. Sarebbe avuto un bicchiere. Non sai che non è mattina appena dopo che si è stata la versione 9, dice Antonè. Da oggi in poi la notte mi bevo un bicchiere di birra, non sono mai stato così bene, non ho dormito così bene in vita mia, madre. Beh, è logico, perché quando una volta che il corpo si abitua, che tu pigli tutti i giorni la stessa pastiglia, alla fine a un certo punto non si fa più l'effetto, capito? L'effetto che ti faceva prima non te lo fa più. Quindi con un bicchiere di birra, sei lamentata, sei rilassata come un coso, mi ha anche ringraziato, ringrazio signor Antonio, la ringrazio veramente, io poco a poco se beve una bottiglia di lieto di vino guai. Si chiama surfazione, cosa si chiama in pratica, il corpo si abitua, capito, a quella pastiglia e non ti fa più il piccolo effetto che ti faceva prima, quindi devi cambiare pastiglia a un certo punto. Che pratica devi fare l'infermiere? È una cosa allucinante, ti giuro, guarda, mi ha chiamato Simone, io non ce la faccio più, Antonio, a stare qui a lavorare, mi chiama di notte, che ore sono? E io sono sulle 2, alle 3 mi chiama, che ore sono? Sulle 3, alle 7, prima poi alle 7, alle 8 si addormentava, gli veniva il sonno, ho capito. Aspetta, c'ho la cura io, ho detto, aspetta Simone. Aspetta stanotte, ho detto, gli porto la birra io, gli invito io, ho detto, prendo la pizza, ti faccio vedere che lui dorme subito. Lui mi dice, no, non è possibile, Antonio. Ti sto dicendo che mi sei lamentato e ti ringrazio pure. Così ho fatto. Allora, sei come nato, ma c'è l'arco, no? Oh mia, la carità. Sento giù il giorno mi facevo piatti, lavando in terra, lavando il terrazzo, ho cucinato, ho fatto la colazione, tutto ho fatto oggi. Ho avuto solo 10 minuti per farmi la spesa, prendermi 4 lattini di birra, mi per la cena e basta. Ma a quel tempo non andavo al bar per dire a bermi la birra, nulla, niente. Mamma, no, così è brutto com'è. Lo so, dalle mio fratello cosa ruba, a mamma l'ho fatto fatta così a un certo punto, quindi devo pazientare, cosa vuoi ti dica io? Ma non c'è qualche domanda che ti può dare una mamma, parenti, va a stabilire i parenti, va a far culo i parenti, va, devi ammazzare i parenti. E appunto per questo, proprio sono i parenti che te la mettono dietro. Ma è così, lo so, purtroppo è così, non ci puoi fare un tubo. Aspetta che scendo con le pastiglie adesso, Giampiero poi già rientra a baracchino, va? Dammi 10 minuti e sono entrato. Ci sei? Positivo, attenzione Luca, ci sei? Chi è che fischia? Luca il monte, il re del monte. E lui che sta fischiando? Sì, vero Luca, sei tu? Eccomi qua, prova. Scusate. Stazionarie. Aspetta. Cacchio. Aspetta. Oh, uno e uno. Ok. Prova come ti ascolta Luca, vai ritardo. Attenzione Luca, se ascolti Alfa 21 che parla. Forte e chiaro. Guarda, stai usando una radio nuova. La solita, sto usando sempre la solita, il Midland sto usando, con le buche, sto usando il baracchino. Comunque mi ascolti forte e chiasso, sì, cioè forte e chiasso, non forte e chiaro. Forte e chiasso, sì, sì. Benissimo, ti ascolto bene, forte, perfetto. Il segnale è quanto ti arriva a lui. Vabbè, io ci ho dormito un po' cane morto, capito? Fai un passaggio, ricapito. Più o meno, vediamo come sto arrivando alla tua antenna. Fai che sei 9.10, dai, 9.15. Lui come arriva, più forte o più basso di me, Luca? Luca. Tu arrivi più forte, Roberto. Perché più o meno come distanza siamo abbastanza simili. Tu sei 9.25, dai. Di solito io mi ricordo che è sul più, ma non lo tocco questo baracchino, rimane così. Qua adesso questo baracchino che sta arrivando 9.10, Roberto. Poi lo segnale è quello che ti ho detto, 9.25, Roberto 30 quasi, dai. Non ne apro, non mi interessa, lo lascio così e poi se uno vuole segnale da me gli posso dare quello, se no lo so fare da un altro. Ma questo è nuovo, Luca? Sì, è il 2009, un attimo che mi sistemo il letto, dai, se no qua se non lo faccio io, qua non me lo fa nessuno. E allora non toccarlo, quello è tarato con un diverso parametro, non è tarato a 150 microvolt, per un S9 è tarato a 300 microvolt, i nuovi sono tutti così, per cui il segnale per avere un S9 deve avere un segnale di 300 microvolt in antenna, mentre con gli altri baracchini, quelli vecchi a generatore, ne bastavano 150. Vai Riccardo. Eia, ho visto che tutti state commentando la foto che ho messo. Ma la foto stavi volando, Riccardo? No, mi stava facendo fare qualche gonfiaggio babbo, praticamente lui mi stava tenendo da sotto e mi faccio arrivare da in alto fino a giù e poi basta, erano solo gonfiaggi. Gonfiaggi? Quando fai alzare l'antenna, scampetti si chiamano, che alzi l'antenna è come prendere il volo in parapendio normalmente, solo che poi non ti alzi veramente, ti alzi da terra, però non prendi il volo, mi stava tenendo babbo da sotto. Ma con una corda ti tiene? Potrebbe anche tenermi con una corda. Ma tu sei capace di volare da solo? No, da solo no, non ho mai ho volato, ma da solo no, mi devo ancora fare un pochino più di esperienza. E se dovesse succedere che ti sfugge a tuo padre quando ti sta tenendo, cosa succede? Che siamo quasi in terra, tanto lui la tiene anche con uno spezzone di corda e già non gli parto, però poi, come dire, mi ha dato qualche base su come fare un atterraggio, quindi potrei atterrare. Stai molto attento, di queste cose si fanno molto ma molto con un'esperienza piano piano, perché se vai e ti sfugge viene una folata di vento che ti porta via, cacchio. No, mio padre è già esperto, già usato in piani di volo, penso che non siano stati buttati comunque. Però come ho detto qualche cosa me l'ha fatta vedere quando tipo l'ultima volta che siamo andati, anche quella volta mi ha fatto pilotare, infatti so un po' che cosa fare in stato tipo lì, mi ha detto fai che svengo, tu mi sai portare in atterraggio, lo so portare in atterraggio. Ehi ragazzi, piano piano, comunque così in emergenza c'è sempre la possibilità di rientrare. Ok, vediamo se Luca ha letto se l'ha fatto. Tanto l'ha provato un altro apparato oppure? Potresti dirlo se vuoi, se no lascia stare. Il gemello piccolo di questo. Ho capito. però con questa regolazione questo qui non va bene, cioè questo microfono che sto usando adesso non va bene con il piccolo, con il Midland l'Alan 14 non va bene, perché questo c'ha l'equalizzatore regolato per l'Alan 44, per il Midland l'Alan 44. Ho capito, cavo. Pensavo che fossero uguali come baracchini, come modulatore, invece sono diversi. Vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che voglia rientrare. Avanti sul canale 10. Comunque ci siamo fatti la regolazione simile, Riccardi. La regolazione simile? Sì, perché con i picchi avevo 8 watt anche io, quando fischio. E normale, puliti, come stanno modulati, c'ha 4 watt, almeno allo ZG, poi effettivi sono molto diversi. Ho capito. Mi piace lo stacco del microfono. Il tuo stacco del microfono, come... No, il tuo, il mio non lo so, non so se ne fa rumore questo, lo fa rumore. Fa, non so se è il mio baracchino che fa così, che fa un, o forse lo fa con tutti, un colpetto quando finisce. Perché io che cosa ho di stacco? Tipo un molto rumore metallico, fa tudum. Questo qua non so se lo fa, lo senti quando stacco? No, fa tipo un... non so come dire, un battito, tipo una... Non so se sto dicendo balle, però secondo me sembra tipo un battito del cuore, una cosa del genere. Io. Ok, no, questo è molto sensibile, mi piace perché è delicatissimo, il PTT lo sfiori appena appena, non si punta, è molto meglio dell'altro, di tutti gli altri microfoni che ho, è molto delicato, nel senso anche tutte le funzioni, è bello, a me piace. Ho capito. Io. Vediamo se Luca Del Monte è rientrato, avanti Luca. Pensavo che anche stasera fosse andata a volare, non siete andati oggi, Ricca? No, oggi stavo sistemando a casa, stavo sistemando, poi siamo usciti a fare delle compere, non avevo tempo di niente, poi siamo anche andati a mangiare fuori, quindi non ho fatto niente, ma comunque oggi c'era qualcuno in frequenza, perché non ho sentito proprio nessuno. No, io sono entrato dopo le 7, c'era un attimino Claudio, poi c'era Tonino, c'era Doppio Room, cos'è, Claudio, ecco, Marco Condor, non mi ricordo altri. Avanti bene. Ah, tu sei serio? Cacchio, stai andando fortissimo. Cavolo, bellissima radio, complimenti. Sta fischiando un pochettino, non vuoi più 10 qua il segnale, a me mi ascolti bene. C'è un fischiettino però sotto, non so da cosa possa riprendere. Oh, c'è qualche altro parlante vicino. Ecco che microfono stai uscendo, Sergio. Canne più 3, Mario sei un po' troppo amplificato, non lo so. Attenzione, Alfa 21, buongiorno. Aspetta, buonanotte. Ciao, no, bella radio, a parte questo fischiettino di innesso, probabilmente è un po' troppo alta la micchia. Comunque, bellissima, complimenti, bellissima radio. Ok, vai Riccardi, sicuramente ti avrà saturato il coso, il, come si chiama, il malacchino. Sì, stava saturando un bel, poi non capivo chi era, ho guardato il segnale e stavo dicendo, questa è attaccata, infatti stava arrivando a 9.60, stavo uscendo allo smitter. Tu lo sentivi il fischiettino? Sì, lo sentivo, anche la, quando eri in saturazione, però tu non la sentivi perché forse eri lontano. Comunque, quindi ti arriva forte con l'antenina 9.10. Ti sto dicendo, ma si stava aiutando, sì. No, che non abbiamo Alfa Lima, non abbiamo nessun Alfa Lima a casa. Cazzo, 9.10 è tantissimo, neanche tu ci uscivi così forte. Boh, mi sa che quando ho iniziato dovevo parlare della cellula allora. No, non lo so per quale motivo, ma stava arrivando a bomba, infatti ho detto, boh, chi è questo qua? Non mai ci avrei pensato che fosse col baracchino l'antennino del baracchino. No, c'è un fischio, Sergio, qualche problemino c'è di rientro. Ma forse sei troppo vicino all'antenna, o sbaglio? Qua probabilmente c'è anche qualche rientro, tu le stazionarie le hai misurate. Adesso questo passaggio è andato un po' meglio. Prova ad allontanarti un po' dall'antenna quando parli. Perché c'è un rientro di radiofrequenza, probabilmente c'è talmente il campo elettrico forte e c'è troppo vicino al coso, al baracchino. Esistono dei sistemi comunque per ridurlo questo problema. Comunque la radio, complimenti, è molto molto forte e chiara, soprattutto il segnale, non ne parliamo, 9 più 10 considerando che sei negativo rispetto rispetto alla posizione di Riccardo con l'antenna grande. Magari se riesci a metterti qualcosa tipo un paletto leggero, una canna da pesca per fissare l'antenna della lunga, te la fissi sopra. E io, poi quella roba là che mi ha detto Riccardo, dice già fatto l'ordine, quando vuoi passa e ti do quello che ti devo dare. E io, ok, va benissimo, anche tu ci vedi bene Riccardo, una bella modulazione. Certo, il tornado, tornado 43 così. No, non tornado 43, 34S. Eia, già si sente, è un bel gioco. Quello del tuo babbo che baracchino era, non esce? L'SBE è quello potente, quello che ti piace a te. Non so come te lo posso ricordare, forse te lo ricordi quello che ho detto che non mi piaceva molto, quello che... Boh, te lo ricordi? L'FB suonava benissimo, andava benissimo. L'ho sentito che stava andando forte. Qua era anche troppo forte, infatti era in saturazione, però deve essere che dalla tua parte stava arrivando proprio bene, a quanto hai detto. E io. Vediamo se Luca è rientrato. Ci sei Luca? Sì. Tutti orecchi di fuoco. Comunque Riccardo, visto che il trio c'ha la tua parlata incorporata. E hai vinto tu da per questa volta. Aspetta che ti chiamo. Mi chiami? Ti faccio una bassa, non un'alta, una bassa. Non troppo bassa però. E beh, tutti spariti siete. Ciao già. Ah, mi conosci. Ebbene. Sto bene. Eia, tutto bene, mi sono passato in camera. Oh via, sono una gana. Ho fatto una bella mangiata di lumacchine stasera. Sta merenda, la merenda, sterilizzano, erano buone. Luca al telefono, là. Chi è, avanti? Come stai, sono Marco Cagliari. Chi sei? Marco Cagliari, è bello. Marco Cagliari. Marco Cagliari. Ma da chi lo parlavi? No, parlavo. Ah, vaffanculo, cazzo. Ma quella lavoro, Luca. Ah? Ma quella lavoro la mia sorella. L'ho capito. Ma fatto quel lavoro la mia sorella. Che lavoro? Sorella. Ah, tua sorella quella? Sì. Ma quella che con coso, con... ma come si chiama? Con Del Rio. Che lavoro? Facciamo sistemarla perché era un po' spostata. E vabbè, era pensata a te. E mamma l'ha detto anche, non se lo conosci, a Piero porta tutto. Quello che fa la cosa simile al suo. Sì. E ce l'ha detto lui, gli ha dato lui il numero, boh. No, non mi trovo il tuo numero, guarda su Messenger. Ehi, cazzo, Marco, detti voi che ti ha giocato un nuovo numero 10 volte, boh. Mi ha cancellato tutti i numeri, no. Ma se controlli ce l'hai su Messenger il mio numero. Aspetta, lo mando. Guarda, te l'ho mandato. Ok, Lu, perfetto, è arrivato. Adesso me lo salvo e ci sentiamo, ok? Ehi, ciao Marco.